tardi. Stavo facendo una chiamata generale e non è entrato nessuno. Va bene. Sì, vabbè. Rispondendo che ho trovato a te, gli altri saranno ancora in carica. Io ho fatto una carica veloce, ho mangiato una cosetta e poi più tardi vado a mangiare altro. Ah, così, a ratte mangi? No, io ho mangiato abbondante, tanto tanto. Perché non sono ancora pronte le seppie. Le seppie ti fai? Roba di mare. No, io mangio solo pesce, non le mangio carne io. No, tu l'ha fatta mamma, non sapevo neanche che c'erano in frigo. Già, sono buone, dai, tutta la roba di mare, io mangio tutto. Lo so che molti saranno contrari, però io dico... mangio molto di mare perché mangio anche sushi. No, mia figlia si salta. Mia figlia, la piccola, è vegetariana, mangia tutte queste cose strane. E più il sushi vegetariano, ma io neanche a vederlo il sushi, ma te ne sono muovo. Non è che ne mangio tanto, ma vabbè, dico, per sushi mangio praticamente solo quello, riso e salmone, che non è niente, è una fetta di salmone con del riso. No, no, io solo cucina italiana, mi qualche volta assaggio la cucina messicana, qualche cosa, ma di altre cose, giapponesi, cinesi, niente, a parte neanche a vederla. E ha fatto l'altro giorno, avanti ieri, ha fatto il, come si chiama, couscous, che schifo, gli ho detto, mangia tutto. Ah, ho capito, non l'ho mai assaggiato. Non piace. Che mangio cose naturali e italiane, cucina mediterranea la migliore del mondo. Ma per cucina messicana che cosa? No, sono andato nel ristorante che c'erano delle pietanze messicane, tutto peccante, tipo roba di fagioli, di cose così, ma non brodaglia, roba un po' più buona. Ah, ho capito, sì, e quando fanno la pizza tipo messicana ci mettono aglio, cipolla, piccante, salsiccia, ho capito. Erano dei fagioli, infatti non so cosa, tipo il film, non so se l'hai mai visto, Trinità, Terence Hill, quel film lì, ti ricordi? Io non lo so, il film, qualche volta quando li guardano mi dimentico anche di ricordarmi i titoli. Ah, così, dai, no, questo è un film che lo ripetono 200 volte all'anno, da quando ero bambino esiste, ma è sempre un bel film, con Bud Spencer e Terence Hill, quei due attori, lui è quello che fa adesso... non so, non molto al mano, non mi ricordo come si chiama, Don Matteo. Ah, ho capito. Oh, lo sai che adesso volevo copiare a te quando ho sentito che mi sto comprando, non so che fa, però devo trovarla, praticamente la cartina geografica, però non grandissima perché me la voglio mettere sul tavolo. L'hai visto, io ne ho due di cartina, c'ho l'Europa, il mondo, e poi ne ho un'altra grande quanto quella lì per l'Italia. No, a me mi interessa un po' più il mondo e l'Europa, perché poi dall'Europa mi segno sull'Italia, me ne basta una o due massimo, e così poi mi regolo, perché le voglio mettere sulla scrivania. Ci sono quelle piccoline, dai, già vanno bene, io ne ho altre due piccoline sopra la scrivania dove c'è l'Europa. Però quando fai collegamenti molte volte ci sono dei punti abbastanza lontani che le cartine quelle piccole sono molto generalizzate, ci sono solo i punti principali. E poi c'è anche l'Italia, devo mettere, perché l'Italia molte volte ti chiamano per dire tipo so Capo d'Orlando, composti così, che dice dov'è? E dice vicino a Bari, allora te lo guardi nella cartina e lo cerchi. Ah, ho capito. E la di amatori poi ti devi mettere un bel orologio grande, in modo che sai l'ora in diretta, se devi fare i collegamenti ti scrivi l'orario in un book, si chiama il book di stazione, lo usano i radioamatori, si inizia così, quindi oggi è 25 dicembre 2011 alle ore 21, ho collegato la Spagna e scrivi le Canarie o quello che è, operatore se ce l'hai il nome lo scrivi, segnale 8, radio 4 e ti sei così ti fai dei ricordi, diciamo i migliori collegamenti, poi tra 10 anni o quando sarà, dicemi quando avevo 13 anni, 12 anni ho fatto questo collegamento. No, mica lo sto già facendo il book, tutte i book di stazione, tutti i collegamenti che faccio me li segno, come hai detto tu, e poi nella prima pagina mi sono segnato dove avevo la stazione per ricordarmi e anche altre cose. Cioè, impegnati sono i collegamenti principali, non è che se oggi hai fatto 10 collegamenti con la Spagna, con la stessa città te ne segni, te ne segni uno di più importante, magari ti segni quello che è arrivato più forte, perché se prendi 10 persone dallo stesso punto, dallo stesso giorno, non è che sia molto interessante, se no ci vogliono 10, un'enciclopedia per scrivere, ti segni i collegamenti, per dire Canarie, Baleari, Madrid, Lisbona, eccetera, ti scrivi in quella giornata hai fatto 4 città diverse e ti segni le città diverse. Eia, oh, a proposito di orologio sincronizzato, volevo prendermi, se ne avevo trovato uno in offerta, questo è nuovo, quello Flip Clocks, che praticamente si abbassa il numero, sono con dei cartellini. Ci sono quelle stazioni che, barometriche, che ti danno anche l'orologio radiocontrollato con l'orologio atomico, poi ti dice la temperatura. Io ne ho preso uno, vabbè, ne ho diversi a casa di quelli perché io sono fanatico della precisione, e poi ne ho trovato uno grande, l'hai visto quello grande cinese, bello luminoso, quello è bello, te ne metti uno di lì vicino, ci sono anche quelli con gli accumulatori, con le batterie, per cui non c'è neanche bisogno di corrente, bello che siano belli luminosi i numeri. Ma non prendere quelli a cartelletto perché sono elettrici e non è che siano molto precisi, per dire nell'arco di una settimana ti possono sgarrare di diversi minuti, è meglio sempre mettertelo di questi, se è possibile quelli radiocontrollati, così c'è l'ora perfetta che spacca il milionesimo di secondo. Ah, ho capito, sì, tipo, ne ho uno anche a casa di quelli che ti danno la temperatura, la direzione del vento, l'orario e poi cose. Vabbè, la direzione del vento se c'hai la stazione meteorologica ancora, però ti dice temperatura, l'andamento della pressione, e se c'è possibilità di pioggia, le nuvole o se c'è sole, eccetera, lo sviluppo della cosa, della pressione atmosferica, quando si abbassa è tendente a brutto tempo e quando si alza è tendente a bel tempo, poi c'è la temperatura, no, sono interessanti, ne ho preso diversi di quelli e basta. Dimmi un po', l'hai vista la stazione ieri notte? Sì, l'ho vista, tu non l'hai vista? Io non sono riuscito a vederla, ieri notte è passata sopra la Sardegna, lo sai? Sì, lo so, infatti l'ho guardata. E come si vedeva? Io non sono riuscito a vederla perché probabilmente era dall'altra parte del mio terrazzo, non sono riuscito a vederla io. Sono uscito a mezzanotte, ho aspettato qualche minuto, però non l'ho vista. Tu l'hai vista? Sì, l'ho vista, è sfuggita proprio perché l'ho vista tipo neanche un minuto 30 secondi, perché poi è passata subito, era un bel veloce oggi, ieri sera. E certo, è passata sopra la Sardegna, ma si vedeva bene? Sì, si vedeva bene perché era vicino proprio. Guarda, nel picco dove ci sono tutti i giorni che ti dice il passaggio con tutto il grado di intensità, di visibilità, ieri era massimo, il punto massimo, mai visto sulla Sardegna così. Infatti io da quando la conosco questa stazione spaziale non l'avevo mai vista passare sulla Sardegna. Ma poi c'è anche la stazione russa, c'è anche la Mir, c'è la stazione cinese, bisogna vedere i passaggi, che magari si vede anche quella. La Mir era capitata di vederla tempo fa. Ah, ho capito. Ieri mi dispiace perché ieri era la giornata tipica, cioè così il massimo dell'esposizione. Lo so, infatti anche io l'ho vista in sfuggita perché poi è passata dietro casa dove c'è il bosco e quindi l'ho vista poco tempo. E aspetta, entra qualcuno, la stazione 10 ti vuole entrare? Questo è l'orco dell'altra volta che fa. Adesso però è brutta la propaganda così, non mi piace. E beh, Fabio, l'hai sentito poi, Fabio Massa? Sì, l'ho sentito, ci ho parlato. Tutto a posto? Sì, tutto a posto, deve passare questi giorni e mi sa che l'affare è andato in porto. Non ho capito poi cosa dovevi fare. No, con te, ma la farò con te o con un'altra persona? No, con un'altra persona, con un radioamatore. No, ho capito, sì. Ma lui c'ha un bellissimo baracchino, bello. Ma chi? È quello che si chiama Wagner, quel baracchino che lo fa la Roadstar, poi veramente bello, una stazione base, purtroppo c'ha qualche problemino e non ha lo schema per ripararlo e sta un po', non dico in parte, no, c'ha delle difficoltà, mi ha detto, sta cercando lo schema, però è veramente un bellissimo apparato, ma guarda, te lo cercano, CB base Wagner con la W scrive. Ah, ma non ho capito, ma Fabio o quell'altro? Fabio. Ah, Fabio, aspetta che me lo cerco, che prendo il telefono e lo cerco. Un attimo. Ok, vai. Cerca ho cercato con calma, guarda, è veramente bello, lo fa anche la Roadster, il marchiato Roadster, la Roadster è un marchio svizzero. Dimmi la marca che lo cerco. Scrivi CB Wagner con la W. Wagner basta? Il modello non mi ricordo se è 505 o 501, qualcosa del genere. 505, tanto quello proprio. Scrivi così, scrivi Wagner 5 e poi te lo cerco da solo. 505 è un'altra cosa, provo 501. Ma è una cosa rara, perché non me ne dai immagini. Aspetta, lo cerco io, così ti do il modello esatto. Dammi un secondo, dai. Eia, fai roba. C'è qualcuno intanto che vuole entrare, canale 10, 27.075. Robè, a proposito, il satellite sta passando sopra la nostra testa, fra un po', dico, passa adesso. Aspetta un attimino, sto cercando, se mi ha chiamato mia figlia, mi ricordo. Eia, fai. Scrivi CB Wagner 510. Ah, ok. Stavo dicendo, a proposito, adesso sta passando il satellite, la stazione. Boh, non lo so. Hai trovato questo CB base 501? Sì, CB Wagner. Ah, forse ho capito già qual è. Della Roadster. Allora, quello della Roadster rimane colore dorato, dai. Mentre quello della Corso, della Wagner è nero. È bellissimo, l'hai visto quanto è bello? Sì, l'ho visto, li ho visti tutti e due. Oh, vabbè, no, a me non mi interessa. Però sai che ho trovato uno che vendeva un baracchino General Electric. General Electric sono americani del gruppo General Motors, è uno dei più grandi industrie elettronica del mondo, dell'epoca, insieme alla RC erano i due marchi, anzi forse il più grande marchio di elettronica del mondo dell'epoca, poi sono arrivati i giapponesi, naturalmente hanno iniziato a fare cose, però la General Electric è stata il primo grande marchio di consumer di televisori, radio, eccetera, eccetera, come la General Motors era il gruppo General Motors. Sì, ho capito, perché l'avevo trovato, però a me non mi interessa, però dico, sono fatti bene come li facevano a quell'epoca. Sì, sicuramente sono dei prodotti di altissima qualità costruttiva, molto robusti, naturalmente hanno dei limiti in confronto agli apparati moderni, però sono tutti i componentistica, cioè tutti i potenziometri, gli interruttori sono di qualità molto molto molto buona rispetto a quelli di adesso che è tutto in economia. Eia, a proposito, volevo dire quello che mi ha fatto Torres, secondo che devi passare, diglielo a Babbo. E naturalmente, magari mi accompagna lui, che io non lo conosco a queste, vediamo un po', ci facciamo una passeggiata una di queste sere. Sì, così è meglio, perché così già lo conosce. Certo, ma hai visto che come sono fatti bene quei connettori, hai visto? Ho confrontato a quelli che vendono nei tipo CGBC, Fusaro, non ne trovi più di quella roba. Lo so, infatti è della roba interessante. Sì, se capita, infatti me ne prendo qualcuno, 4 o 5, dai, tanto ci usano sempre quelli anche per altre cose. Sono sempre utili. Ma c'aveva anche, oltre a quelli lì, c'aveva anche gli adattatori, per dire, da PL a N, oppure vari lotti, non so se sono per fare le giunzioni, cose così c'aveva. Sì, gli ha detto Babbo di sì, che aveva queste cose. Bene, buono a sapersi, dai. È interessante perché aveva anche, a chi interessa, adattatori, poi aveva quei PL che sono buoni, quelli non sono come quelli in Teflon. Sì, ma anche quei commutatori, peccato sono a due posti, perché sono veramente buoni quelli lì. Ah sì, quelli li ha presi proprio in mano, sono pesanti, sono quelli buoni. Sono Nissei quelli, sono veramente buoni, di qualità, sono tutti in alluminio presuffuso, non è roba in lamierino tipo CTE o cose del genere, quelli sono veramente buoni. Avanti il break. Avanti. Ciao Claudio, buonasera, ben sentito. Avanti Riccardo. Ok, ciao Claudio, ben ascoltato. Avanti. Avanti Claudio. Sono tanti 55, io vabbè non sono per niente allenato, forse per me sono troppi anche 5 km adesso, come adesso. sì. Ah sì, no, avevo capito che ha detto riprendere a me. Infatti è da un po' che non ti sentivo in radio, se non sbaglio. Spaccato, radio Super 5, molto chiaro, dai, finalmente anche tu hai raggiunto le condizioni più che buone, dai. Messo con l'accordatore che ti ho dato io? No, ci mancherebbe, no. Dava, diciamo, un apparecchio economico, però diciamo dava più che bene, dai. Ne avevo un altro pure da parte che me l'avevano dato, meno male quello me lo sono, l'ho trovato, ma c'ha una precisione della, un marchio di Tucchio negli anni 70, era di mio zio, me l'ha dato, l'ho trovato l'altro giorno, e questo dove è uscito, c'ha una precisione spettacolare, ho fatto la prova con 440, proprio le stazionarie, la potenza perfetta, non è un accordatore soltanto wattmetro rosmetro, e molto ma molto meglio dello ZG, molto più preciso, l'ho dato a Claudio per accordarsi le antenne, ha detto che era perfetto, infatti quello me lo tengo bello da parte, è veramente bello. Cartolini, adesso se tu lo vedi, io provavo aperto proprio, siccome era pesante, ho detto ma che c'aveva, cosa c'è dentro, ma tu vedi la cura costruttiva di questo apparecchio, proprio c'ha una linea d'onda dentro, all'interno, schermata, adesso c'è un bel giocattolino, dai. Magari non è niente di particolare, però nelle parti economiche, diciamo, degli apparecchi quelli economici va molto preciso, una bella scala di indicazione molto, molto precisa, mi ha impressionato in positivo, dai, perché lo ZG c'ha delle, diciamo, non è molto preciso come apparato. Io ho il TM1000 che c'ha anche commutatore d'antenna, fa accordatore, wattmetro e commutatore di due antenne, sino a 1 kW lo dichiarano, ma io sono sicuro se gli dai 300-400 watt lo sciulli quell'apparecchio lì. C'era uguale Riccardino, mi sembra te l'ha messo a posto Fabrizio, o sbaglio Riccardo? Il tuo? Il TM1000 della ZG te l'ha messo a posto Fabrizio? Sì, adesso va benissimo, funziona, ce l'ho qui davanti agli occhi e vedo quanto di stazionarie e i watt. Ma le regolate le stazionarie lo sai usare, lo è rosmetro? Certo che sì. Ah, meno male, ma adesso sei in scala 0 a 10 tu? Sì. E quanti watt dai, è importante, è mutta? Importante mutta? Fammi vedere bene, da, perché me lo sono messo un po' più lontanino, hai visto? È da un 6 watt. Ok, quindi c'è già la tolleranza almeno 10%, togliene un watt, più o meno sarà sui 5 watt effettivi in antenna, magari qualcuno di meno. Vabbè, comunque sono molto bene. Volevo fare, quando c'è anche Luca, la prova, perché almeno adesso non sto uscendo con tutti quei watt dell'altro e voglio fare la prova, lui però ha 20 watt. Luca chi? Luca, no, non qui, per l'altro. Luca Dal Monte. Luca P. Luca Manicomio si fa chiamare, perché è sempre fuori di testa, ogni tanto Luca con le sue battute ci faceva rallegrare le serate, anzi adesso diciamo è un po' meno presente, ma prima era troppo tolto. Ok, vai Claudio, avanti a te il mic. No. No, guarda, sono impegnatissimo, ho finito anche, poi dovevo andare dal barbiere, ho finito alle 8 dal barbiere, sono arrivato a casa, ero un po' stanchino, poi ho acceso, c'era Riccardino, il computer l'ho lasciato anche giù in officina, l'ho neanche portato, devo farlo con calma, mi metto qualche ora così vedo proprio tutte le funzioni, perché c'è un sacco di pro, di cose da manipolare con la chiavettina. Comunque, già ci provo e ti faccio sapere, tra l'altro la chiavetta è di Riccardo, del babbo di Riccardo, non è neanche la mia. Ieri notte è passata sopra la Sardegna, nord Sardegna, l'hai visto tu il passaggio? Però io non sono riuscito a vederlo perché era dalla parte opposta al mio terrazzo, stavo cercando di vedere, a mezzanotte proprio ero già coricato, poi ho detto cacchio, ho visto l'ora, ho detto aspetta, era le 23:57, mi sono alzato, ho aspettato qualche minuto ma non ho visto. E ieri sicuramente era una giornata ideale perché era bella la giornata, poi era il punto strategico, proprio sul nord Sardegna è passato, per pochi minuti, però è passato pochi minuti, pochi secondi sopra la Sardegna. Non è passato ieri. Un attimo. Sempre l'orbita in quel senso lì, da est verso ovest, da dove tramonta il sole verso dove nasce il sole. E c'è qualcuno che sta chiamando, avanti chi chiama? Tu stavi parlando, ti hanno sovramodulato qualcuno, avanti su 10 che vuole entrare. Tu riprendi Riccardo. Eia, comunque ho visto, ci credi, cosa vuol dire? Ah ecco, ma in che frequenze modulano per la stazione spaziale? Comunque abbiamo il computer uguale a Toshiba. Al mio ci avete Toshiba? Sì, identico. Allora, non per vantare il computer mio, che il mio ormai è superato, ce l'ho qualche anno. I migliori computer in assoluto, come qualità costruttiva, sono due marchi, altri tre. Toshiba, Fujitsu, Siemens, sono gli unici produttori di computer che costruiscono tutto, dalla componentistica ai monitor, fanno tutto loro. Tutti gli altri, dalla Sony compresa, avete presente che la PlayStation, il processore l'ha costruito la Toshiba. La Toshiba ha costruito dei monitor per tutti i marchi, tutti i componenti che ci sono all'interno del computer Toshiba e della Fujitsu Siemens sono costruiti da loro, al contrario di qualunque altro costruttore anche più grosso della Toshiba, tipo il gruppo Matsushita, Panasonic, Technis, eccetera eccetera. Tutti chiedono la costruzione dei componenti, di molti componenti, la Intel, la Apple, eccetera eccetera, se li fanno fare da altri, mentre la Toshiba è uno dei pochi marchi, dei tre marchi al mondo, che si costruisce tutto da solo. Lo so, anche tipo l'iPhone prende gli schermi da Samsung. Certo, un po' da tutti, dall'LG, eccetera. Ormai non lo fa più nessuno. E la Toshiba ha dei brevetti a livello mondiale unici, ancora come adesso, certe ditte produttrici di componentistica devono prendere il brevetto da cosa, se lo devono far costruire su licenza. Per cui quando tu senti, io c'ho un Acer, c'ho un HP, c'ho un Lenovo, cioè sono tutti assemblati con altri componenti. E la qualità costruttiva della Toshiba sta proprio in quel fatto lì, perché sono tutti componenti e progettati apposta da loro, non adattati, tipo come fanno molti, per dire prendono il processore di uno e poi ci mettono l'alimentatore di un altro con quell'altro componente dell'altro, è tutto un miscuglio, per cui è sempre un compromesso. La Toshiba c'ha una progettazione, un'industrializzazione che fa tutto loro, e anche la produzione naturalmente. E per questo a livello costruttivo e affidabilità sono i numeri uno Toshiba, ecco. Poi naturalmente ci sono delle evoluzioni di prodotto, perché il computer mio è già passato vecchio, il monitor non è un granché, lentissimo, però all'epoca che è uscito era un discreto computer, naturalmente non era di grandi prestazioni, però a livello di affidabilità a me non mi ha mai lasciato a piedi, non si è mai rotto niente, c'ha sempre la batteria originale, quel computer c'ha 5 o 6 anni, adesso forse 6 anni c'ha, sì, è sempre la stessa batteria, mi fa almeno 3-4 ore di autonomia, ce l'ha, anche la batteria è marchiata Toshiba. Io sfido molti computer di con quell'età che abbiano mai mai avuto problemi. No, ma infatti anche il mio non mi hai dato problemi, non mi ha mai lasciato a piedi. E quello anche noi ce l'abbiamo da 6 anni, una cosa del genere. Più o meno l'ha comprato mamma quando è uscito proprio. Costava anche un bel soldo quando è uscito, perché non aveva queste ultime prestazioni, però andava bene. No, io l'ho preso in offerta a Conforama, era solo in un giorno, ne sono arrivati due al 50% di sconto, l'ho preso correndo veloce, l'ho pagato al 50% del prezzo di mercato, forse era uno di quei civetta, articoli civetta, non lo so, l'ho preso immediatamente io. Ok, avanti l'amico Claudio, avanti a... Toshiba magari non sarà un marchio straconosciuto come altri marchi, ma c'ha delle, come si chiama, dei brevetti, per dire è stato il primo produttore mondiale di televisori 3D senza bisogno di occhiali, aveva un sistema stereoscopico senza bisogno di occhiali, c'ha il brevetto, adesso vabbè, 3D poi non è andato male perché la gente era fastidiosa, stancante eccetera eccetera, ma non so se vi ricordate 8-10 anni fa c'era la mania di prendere televisori 3D con gli occhiali, vi ricordate? La Toshiba era l'unico produttore al mondo che ha fatto il monitor stereoscopico senza bisogno di occhiali. Ho capito, lo so, molti tipo quando vado a scuola mi chiedono questo computer, e mi hanno detto che era dell'anteguerra anche. Tu dici sì, è dell'anteguerra, però l'anteguerra sta ancora funzionando, gli dici. Tu che c'hai un computer di 2 anni ti sei intrippato 20 volte, ti si blocca, scalda, la batteria ti scalda, ti si intrippano i programmi, eccetera, eccetera. Il Toshiba è un signor computer, come costruzione, stiamo parlando come tecnologia e costruzione, naturalmente come prestazioni ce ne sono, li fanno 10 a 0, adesso dopo un anno ci sono computer che sono già obsoleti, già passati, però a livello di componentistica non ce n'è, come sui monitor. Sui display il numero uno mondiale è la LG, c'ha dei brevetti allucinanti, e vicino c'è la Samsung. Se presente la LG produce per Sony e per Panasonic, gli dà gli schermi, molti come si chiama telefonini montano i monitor, cioè i display della LG di grandissimi marchi. Io te l'appoggio, te la spingo, parole di gringo, c'è problema. Te posso dire, no, perché ce l'ho io, ho conosciuto anche altri prodotti. Toshiba ha inventato, non adesso, dei sistemi di riduzione di rumore su apparecchi hi-fi brevettati, quando c'era il Dolby, esisteva prima la Dolby, e la Toshiba aveva fatto l'Aurex come sistema di riduzione del rumore, ed era l'unico che poteva contrastare la Dolby, non so se lo conoscete, ormai sono superati, ma negli anni 70, diciamo dai fine anni 60, la riduzione del rumore nei flusci, diciamo, nelle registrazioni a cassetta, c'aveva il monopolio la Sony, poi è uscito quello della Toshiba, non Aurex era il marchio d'elite della Toshiba, Adres si chiamava, il sistema di riduzione del rumore, e l'unico che l'ha fatto è stato la Toshiba, il DBX e la Telefunken con il coso, con il, adesso non mi viene il nome, erano tre i marchi che hanno fatto per contrastare la riduzione del rumore, e quello della Toshiba, l'Adres era eccezionale come sistema, di gran lunga superiore al coso, a quello della Dolby, che si è fatto i miliardi la Dolby come riduzione del rumore. Bianco per me, torno subito. Ehi, okay. Vai Antonello, buonasera, e poi rilancia Claudio D'Amuro. Ehi, dammi un controllo di radio, come sono? A posto, sei saturo, chiaro, perfetto, com'è? No, sei leggermente saturo, sei troppo forte di segnale, non so quanti gliene stai dando perché sbatte lo smitter oltre i 60. Ha fatto la modifica stasera di questo lineare, quindi sono potenza 6, potenza 5, come va? Meglio o peggio? Prova a parlare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, questa è 5, questa è 6, 800 sono. 800, così è? Sì, 800 sono, sì, esatto. Il lineare è vecchio, bello, e funziona. funzionante, diciamo quella, consisto 800 watt tondi tondi. No, no, la voce si capisce, però stai saturando, troppo, o c'è troppo pilotaggio. Beh, quello è logico, la vetta, aspetta un secondo, ti accontento subito, aspetta. Guarda un po' adesso, ti va bene, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sì, ha migliorato abbastanza. Adesso sicuramente in tutto quel territorio scompare la televisione nell'arco di un chilometro, ogni segnale, allucinante. E io bene vado, buonasera. Buonasera anche a te, ben sentito. Sto usando il BV 2002 e quello che monta in pratica la scheda del lignarone. Quello bello, come bellissimo. Un bisù, guarda la verità, 7,50 sotto 5 valvole, se c'è valvole, ma fa quella valvole, non c'è da niente. 1, 2, 3, 4, 5, transistor. Ah, è a transistor, non è a valvole, cioè, pensavo fosse a valvole quella parete. 5 transistor sono, il V2002, quella 5 transistor. Come va, bene o male? C'è una ventola, si sente sotto, comunque la radio già è buona, dai, è comprensibile. Non è eccezionale, ma è abbastanza buona. Sono tornato. Meglio così, sono contento. Adesso sì che si torna come una volta. Ok, ti ringrazio, va. Adesso vado a mandigare e sono anche soddisfatto, non solo l'altro. Ricordi, ci sentiamo fra una mezz'oretta. Fammi cenare, la pizza sta arrivando. Ehi, comunque non ti ho salutato, ciao Antonello. Via, saluto neanche a te. Aspetta, scusa un attimino, fai un controllo Capri, quanto ti arriva per curiosità con quella potenza a muros? Di Mario Manse, figurati, li tira fuori l'800, l'ho sistemato stasera, quindi a posto, va. Sono contento per voi, ci sentiamo dopo, là. C'è il tempo di mangiare e poi rientro. Gianni, a te quanto ti arriva Antonello? Antonello, fai un altro passaggio che ti do anche io un controllo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, com'è? La storia va bene? Non va bene? No, non lo so, dimmi tu. Lo dico io? 9, 20, radio 5. 9, 25 qua. Sono con le 11.58, adesso cambio cavo domani mattina e vi faccio schiattare. E alza l'antenna, così fai male a un po' di gente. Perché in radio, prova a vedere che ho regolato il watt, dai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, quindi sono andato fine la verità, quindi non è che mi fido molto, comunque sia, faccio passaggi corti. Adesso sei 9.25, guarda il mio di segnale. Prova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9.25 anche tu. Tu con quanti batti sei? 800 quasi so. Però non, vabbè, lascia perdere, il capo dipende parecchio, C'ho le 11.58, non è che mi fido molto, la verità, perché ci vuole il capo grosso. E come Mario Massa è lineare? BV 2001. 2002 per esattezza, a valvole, cioè no a valvole, va a far culo, a transistor. Come mai ce l'hai tu a aggiustare? Sì, aggiustare e usamelo io, mi ha detto Mario, ci usalo tu, mi ha detto e non ci sono problemi, adesso vi faccio prestare il cable domani mattina, mi faccio portare il 140 e sono a posto. Dimmi una cosa, hai detto tu, scusa Claudio, quanto ti arriva di segnale a te con quella potenza 9.30, così hai detto? Se mi Quanto arrivo io invece è normale e tranquillo. Claudio, adesso che ho regolato i watt, li ho abbassati, come ti sto arrivando? La radio com'è? Cavaga, ma anche tu stai arrivando bene, la radio è buona. Oh, che la ruggine. Sei, sette, sì, qua. Sei, sette, radio 5. Senti, mi vuole lacrime agli occhi. Da Torino, Torino a Kawasaki, poi c'era Franco Binario. Solo che a Franco poi mi è scappato Kawasaki e lui se ne è accorto da lì. Sentiamo là, così ci ripartiamo. A fa poco, dai, ciao. Ok, allora va bene, dai. Io non è che mi trattengo molto. Vediamo un po', Riccardo, ci sei ancora? Come si chiama? M3009. Aspetta, parliamo una volta, se no ci scavalchiamo, che ci ha salutato Antonello. E io, dai, che c'è noi, ci sentiamo dopo, dai, che così almeno ci ripartiamo. C'ho fame, la verità, quindi voglio mangiare una pizza, l'ho pigliata oggi, adesso me la mangio. Dopo già rientro, va. Mangiati la pizza! Claudio, dammi un rapporto anche a me, per curiosità. Tu sei invece 9 più 15 qua, e Riccardino quando ti arriva? 1, 2, 3, provo, 2, 3, prova radio, fai anche tu come fai il passaggio, guardo, ti do anche io un controllo. Con lo ZGM B+5 e sto usando questo, invece potrei usare anche il Turner, che il Turner che non vuole staccarlo e poi riattaccarlo, e tu invece mi stai arrivando a 9.10, radio 5. No, si è rotto, ho avuto un problema alla scheda e adesso è a sistemare. Comunque cioè, perché io adesso comunque sto producendo con 6 watt e con il Kenwood, con il K stavo uscendo con molti, molti più watt. Gianni, quanto l'ascolti tu a cosa? A Riccardino. Prova Riccardino. 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova radio. 9.25. Buono, anche quindi arriva bene anche da te. Da tutte le parti sta arrivando Riccardino, considerando che sta uscendo con il watt dall'apparato, ottimo. E adesso ci avete lo stesso segnale, così normale, tu e lui. Quasi 9.20 tutti e due ci avete, lui con la potenza dell'apparato. Io sto uscendo con 4 watt. Avanti il break. Ciao Fabio, ben sentito, in compagnia mia di Claudio Damuro su Riccardino e Gianni Doppio Rumo da Sassari. Avanti Gianni per Fabio. Ciao Fabio, ben sentito, cordialità anche a te, buona serata, avanti. Bella master. Alla grande, ciao anche a te Piolo. Fabio. Fabio. Cappa, sono lì. Vende, vende. Sto inchiappettando a tutti. Vabbè, adesso se ci scappiamo. Oioi. Fabio. Non so cosa ho combinato questa ruota, io tra te, Nonchino, eccetera. Roba è mitico, ti ne fa buono. Allora. Io. Aspettate un attimino, quando facciamo i passaggi rilanciamo con il nome della persona, se no facciamo confusioni. Adesso per dire passo a Gianni e Gianni dovrà dire il nome della persona che sta rilanciando, se no non è che abbiamo piedi, siamo in 5 e stiamo già facendo confusione. Gianni vai e poi farai girare tu in ordine, avanti. Io rilancio a Fabio per chiedergli come sto uscendo di radio, che ho fatto, ho abbassato i watt e voglio sapere se la radio ha migliorato, Fabio. Gianni, sei tu, guarda, non lo so, sei uscito molto, No, è uscito di radio, Gianni, confermo io. Gianni, c'è la portata. Gianni, la portata è 925, lo stesso segnale di Riccardino, uguale. È in zona qua, già lo so io chi può essere. Avete parlato in due, Gianni e Fabio, riepiloghiamo, facciamo i passaggi giusti. Parliamo uno per volta, avanti Gianni e poi di nuovo Fabio, se no vi sovramodulate a vicenda. Beh, rinuncio perché tanto c'è la portante, non fa parlare. Rinuncio. E chi è la portante? Io non sento niente. E tu non la senti, è 9.30 quasi qua, 9.25 passi. Mi copre a Fabio per non farmelo sentire. Fabio. Capo, un attimo, sto di basta e giù subito, abbiamo fatto scusate. E a me mi copre. Copre un po' a tutti qua, fa vedere, vabbè, segnale, tu dico su. Ora, 1, 2, 3, prova radio, canale 10. Più o meno voi siete con lo stesso segnale, Roberto. Ah, scusa, ma è una portante muta. E allora, fa bidata. Muta volevo dire fissa, volevo dire, ho sbagliato la parola. Non è fissa, a volte la mette, capito? Io non vedo niente, ma a chi la mette in particolare? A chi a me l'ha messa? Quando parla Fabio, che risponde a me, gliela mette per non farmelo sentire. Ah, pensavo la mettesse a tutti. Io non la sento, questa portante non me ne sono accorto. Vabbè che Fabio è vicino qua, probabilmente è molto bassa questa portante. E allora facciamo riprendere a Claudio. Ramuro, davanti a te il mic e avanti. Al telefono Fabio, vai Rica. Riprendo io. Forse non me ne sono accorto di questa portante. Forse me ne sono, dico la verità, non me ne sono accorto. Vediamo poi se ritorna il signor Portantino. Anche a Riccardo l'ha messa, vero? Già, confermo. Gianni. No, dimmi, Roberto. L'ha messa anche a Riccardino, sentivo un disturbino sotto, però Riccardo passava. A te ti fa vibrare la voce. Sono troppo forte io, non mi batte nessuno a Sassari. E ancora non hai messo niente, aspetta un po'. Io dico, se Riccardino si mette un apparato un po' più efficiente, con qualche watt schicchieggia forte a un bel genere. Come tu. Sì, sì, ma lui c'ha una bella posizione, mi già. Lui sta uscendo con pochissimi watt e sta arrivando forte, forte veramente. Sì, adesso arriva bene, adesso. Io quanto ti sta arrivando a te, Roberto? 25. Cappa. Praticamente adesso sta arrivando forte Riccardino, da quando ha messo quel microfono va benissimo. E quando metterà l'apparecchio un pochettino più grande ci sarà a divertirsi, dai. Avanti di nuovo Claudio e poi dopo vediamo se rientra Fabio che era al telefono. Sì, ma vabbè, se non mette la portata è quello lì, se sta tutti bene, però se quello mette la portata copre a Fabio e copre a te e copre più bassi, là. E chi lo sa che la sta combinando, c'è un sospetto, già c'è un... Ma per come si dice ce n'erano due di portantini, uno nella zona diciamo verso il monte predominante e un altro verso la zona tua, che mi avevano detto più o meno chi poteva essere. Io ripeto, da parte mia qua non disturba nessuno. Avanti Riccardo. No, anche oggi pomeriggio c'era, stava battendo, rompendo le scatole quando stavo parlando, anche io, e stava disturbando a più basso a Fabio. Fabio anche lui adesso si deve mettere l'antenna sopra e farà male anche lui, vedrai che alla fine non disturberà nessuno. No, infatti, è troppo, come dice Claudio, è un nano. Un anetto. Vediamo se Fabio è rientrato. Avanti Fabio. Ma sanno che oggi ci manca un bel di gente, come mai la sera non sta più entrando nessuno già? Stanno tutti uscendo. Cacchio, uscendo dove? Adesso non penso che puoi andare al mare, ancora non è tempo di mare, la notte. Vabbè, però ci sono quelli che vanno in pizzeria, penso che ci può andare. No, in pizzeria forse no, vabbè. Che ci fanno un giretto, forse ne vanno, non so se si può andare ad Alghero, sotto Torre. Ma la gente lavora ancora, magari quello di sabato lo posso credere, la domenica, ma durante settimana non lo vedo molto il discorso. Magari qualcuno sta facendo qualcos'altro di interessante, magari più meno, diciamo, meno divertimento, magari qualcosa di diverso oltre che la radio. Ok, e tuo babbo Claudio che fine ha fatto? Oh Claudio, sono ancora scioccato dal bidone di ieri. Ciao a tutti. Ehi, ciao Riccardo.